Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Noi parenti del monte in baluardo, sapremmo morire e disprezzar la vita, per noi risorgerà la nuova Italia con la guerriglia. Questa puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, oggi i fumetti sono veramente a sinistra perché ancora una volta ci confrontiamo tra l'arte del balloon e la resistenza. Infatti presentiamo una graphic novel, edito Tosca, che vede un titolo recitare Nel cerchio dove ci sale il respiro, con Maurizio Balestra e Matteo Massacurati in collaborazione per produrre questo lavoro. Infatti Nel cerchio dove ci sale il respiro è una storia fumetti dedicata al partigiano Augusto Capovin. È un progetto nato per inquadrare storicamente una parte della epopea partigiana delle colline del Cesenate. Da una parte lo scrittore storico Maurizio Balestra e dall'altra il fumettista Matteo Massacurati. Una produzione nata grazie ai patrocini dell'AMPI di Cesena e del Comune di Cesena ed anche alla collaborazione dello staff di Fanzinoteca d'Italia coordinata da Gianluca Umigliacchi, direttore fanzinotecario. Nel cerchio dove cessava il respiro è il primo titolo che lo stesso partigiano Augusto Capovin diede alla raccolta di poesie che racconta la sua esperienza di vita partigiana. Pochi mesi vissuti in montagna fino al grande rastrellamento che colpì la brigata romagnola nell'aprile del 44, un periodo breve che lo segnò per tutta la vita. Qui racconteremo, dice il volumetto in apertura, questa storia che è quella di Augusto, ma anche quella dei suoi amici partigiani, alcuni come lui ritornati ed altri invece no, ahimè, e del loro sacrificio per costruire un mondo migliore. Lo stesso Gianluca Umigliacchi della Fanzinoteca ci racconta con maggiori dettagli questo lavoro. Nel 2015 l'AMPI di Cesena si è preoccupata di pubblicare un libro, Nel cerchio dove c'è sale il respiro, questo è il titolo, che racconta di una storia partigiana. E questa storia partigiana è stata, diciamo, curata dal punto di vista storico da uno storico e anche da un illustratore. Di che cosa tratta questo libro? Il volumetto, sì, il libro è una parola un po' grossa. Il volumetto appunto è una storia reale di partigiani, è dedicato a un autore che si chiamava, deceduto nel 2010, Augusto Capovin, e lui ha avuto questa esperienza nel periodo bellico. Quando se n'è tornato ha scritto due libri in poesia. In pratica lui aveva portato sulle rime la sua sensazione, diciamo, del periodo che aveva vissuto in battaglia contro i nazisti e i fascisti. Lo storico Maurizio Balestra di Cesena ha avuto modo di sentirlo, ovviamente prima che scomparisse, e di intervistarlo, e partendo da qui anche proprio nel 2010 presentò il progetto di realizzare un fumetto all'AMPI di Cesena. Ci è voluto un periodo abbastanza lungo perché alla fine l'abbiamo pubblicato nel 2015, però il progetto gradualmente, passo per passo, è andato avanti e tra varie prove di disegnatori, ovviamente disegnatori emergenti, non professionisti, perché sennò non c'era la possibilità economica di poterlo realizzare, tra varie prove siamo arrivati con Matteo Massacurati, che ha realizzato un prodotto, tra virgolette, almeno dal mio punto di vista, che sono comunque di parte, eccezionale. È stato un lavoro faticoso, lo storico ha dato tutte le direttive di come dovevano essere determinati luoghi, spazi, armi, e comunque avevamo anche i volti dei personaggi di allora reali che sono stati inseriti, ma nel contesto generale di tutta questa vera ricerca storica l'unico volto finto è proprio quello di Capovin, perché la foto che avevamo era da vecchio, non avevamo nessuna foto di lui di Cernovegli. Questo quindi è un fumetto storico, ed è un fumetto storico, possiamo dire, didascalico, nel senso racconta esattamente una vicenda della lotta partigiana, e tenendo proprio conto di tutti i particolari, quindi facendo anche un lavoro di scenografia precisa. Il disegnatore ha ricevuto da me, dopo tantissime ore di ricerca, 2000 file di documentazione, che non avrà certo mai consultato, perché sennò non avrebbe neanche fatto il fumetto. E per dirne una, a una vignetta di una determinata pagina, dove ci deve essere un determinato mezzo bellico, ho fatto 2 ore di ricerca, 100 immagini estrapolate, dalle quali poi ne ho selezionati 20 e gliele ho passate perché lui realizzasse una vignetta. Mentre invece nel caso di Strabattenza mi sono letto un libro intero che parlava di tutta la storia di Strabattenza per fare un'altra vignetta. Quindi ti posso garantire che ci sono proprio dei limiti quasi assurdi. Il fucile che veniva usato in quel periodo era il moschetto 92, e quindi ho fatto comunque anche in questo caso la ricerca di materiali, immagini, ma anche illustrazioni, e le ho passate al disegnatore. Solo verso la fine ci siamo accorti, lo storico ci ha fatto presente, che il moschetto 92 non andava propriamente bene quello che avevamo realizzato, perché, e ci ha spiegato la storia, il moschetto 92 che avevano i partigiani erano i moschetti che erano riusciti ad andare a prendere alla caserma abbandonata di Cesena, ed erano semplicemente i moschetti a canna lunga. Per cui il disegnatore, una volta terminato tutto il fumetto, ha dovuto allungare tutte le canne del moschetto. Di rifare i disegni per sì, solo delle canne, però le ha allungate tutte. Quello che ti chiedo, tu che ormai hai una grande esperienza in fatto di anche di fumetti, direi, visto che qui a Forlì avete aperto questo nuovo archivio da poco tempo, il fumetto, chiamiamolo storico, ha un futuro? In questo caso avrebbe un grosso futuro, perché si fa un fumetto su una storia dei partigiani semplicemente perché non c'è più capovino, ovvero il partigiano, da poter andare nelle scuole a presentare la sua esperienza. Per cui noi abbiamo realizzato appunto con l'AMPI questo fumetto con una, diciamo, proprio una logica concreta di andare nelle scuole, parlare, sì, i soci dell'AMPI, del periodo bellico, ma poi dare agli studenti, a questi giovani ragazzi, un prodotto che potesse essere un po' accattivante e stimolante, e soprattutto dietro questo poi andare avanti, permettere a loro di stimolarli e andare avanti nelle ricerche o nelle informazioni in relazione a quel periodo. La cosa ha funzionato benissimo, a tal punto che l'AMPI di Cesena vorrebbe ripubblicarlo, perché tra l'altro questo l'abbiamo fatto in tempi molto brevi, quindi ci sono anche degli errori. Purtroppo non riescono a trovare i fondi per poter rimettersi in gioco. Questo non toglie che subito nel 2015, una volta terminato questo e visto il successo che ha avuto, noi abbiamo proposto ad altre AMPI locali, come per esempio Forlì in Popoli, Cervia, le abbiamo mandati degli email. Alcuni ci hanno detto che ritenevano l'idea molto interessante ma che non avevano fondi, con altri ci siamo incontrati e abbiamo pianificato l'inizio di un percorso che però sempre senza fondi non è riuscito ad andare avanti. Quindi storicamente parlando, nell'ambito del discorso dei partigiani, avere una collana di tante storie sarebbe un qualcosa di eccezionale. L'arco che passa, la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Fate l'arco, quando passa il nemico fugge allora. Siamo fieri, siamo forti per cacciare l'invasor. Adi alla giovinezza in cor, simbolo di vittoria. Marciamo sempre forte e siamo pieni di gloria. La stella rossa in fronte, la libertà portiamo, ai popoli oppressi la libertà noi porteremo. Fate l'arco che passa, la brigata Garibaldi, la più bella, la più forte, la più ardita che ci sia. Fate l'arco quando passa, il nemico fugge allora. Siamo fieri, siamo forti per cacciare l'invasor. Col mitra, col fucile, siamo pronti per scattare. Ai traditor fascisti gliela faremo pagare. Con la Dunque abbiamo parlato di questo lavoro Nel cerchio dove cessavi il respiro con Maurizio Balestra e Matteo Mazzacurati, che narra una vicenda della Resistenza filologicamente ricordata. Ma per rimanere sul tema dei fumetti della Resistenza, ritorniamo al Pioniere, che dava alla Resistenza un ruolo centrale. Ancora nel 73 vengono editati una serie di Pioniere Almanacco, il cui secondo numero proprio si concentra su una raccolta di racconti legati alla Resistenza o in prosa o in fumetti dalla Dina Rinaldi, che era poi la direttrice del Pioniere. Sì, Dina Rinaldi teneva molto alla Resistenza e alla memoria, e quindi lei si poneva naturalmente sempre il problema di quanto la battaglia, la Resistenza contro il fascismo fosse presente nella memoria dei giovani, e quindi l'esigenza nel 73 di ripubblicare queste storie fu molto importante, infatti accade. Nella sua presentazione la Dina Rinaldi dice: nella vita del Pioniere la Resistenza ha sempre avuto una grande importanza, era, come si dice, una delle sue carte di presentazione. I fatti, i protagonisti, gli eventi storici che cambiarono l'Italia furono sempre presenti nelle pagine del giornale, in prosa e in poesia, in romanzi, racconti, illustrazioni e fumetti. In quegli anni, a dire la verità, c'era chi voleva mettere la Resistenza in soffitta. Nelle scuole non se ne parlava quasi, e i giornali per ragazzi si limitavano a ricordare quegli avvenimenti in poche righe e in scarse immagini in occasione delle ricorrenze scritte sul calendario. E dunque, sfogliando questo almanacco 2, antologia partigiana, si apre con una vecchia copertina del Pioniere con Allarme sull'Arno, un racconto a fumetti con i testi di Bregaglia e l'illustrazione di Clario Onesti, che viene ripreso poi nel centro dell'almanacco stesso. Abbiamo un altro racconto al Partigiano a 15 anni, e quindi in chiusura un ultimo racconto legato sempre alle strips, che è 25 aprile, Genova insorge. Oltre a questi fumetti ci sono una serie di racconti in prosa che riportano sempre le varie insurrezioni da Ravenna a Montefiorino, in quella che è appunto un'epopea resistenziale che, dicevamo, è davvero centrale per il Pioniere. Ricordiamo che Un partigiano di 15 anni, che è una storia appunto di un ragazzo partigiano, fu pubblicato sul Pioniere nel 1955 a puntate, proprio nell'anniversario del decennale della liberazione. E Allarme sull'Arno fu pubblicato in strisce, quelle famose strisce che erano sotto la pagina e che venivano ritagliati, quindi oggi si possono trovare anche in certe collezioni, proprio come con i libricini con tre vignette per paginetta. Ricordiamo anche che questi almanacchi, che secondo la Rinaldi avrebbero dovuto essere molti di più, purtroppo finirono le loro pubblicazioni proprio con questo numero 2. Ci fu un numero 1 che erano, ripercorreva i personaggi del Pioniere, e poi questo numero 2 dal titolo appunto Per la libertà, e purtroppo la serie finì qui proprio in quell'anno 1973. Sì, faceva parte di quei tentativi davvero ostinati della Rinaldi per dare continuità all'esperienza del Pioniere, che invece poco a poco negli anni 60 prima e 70 poi è stata prosciugata per difficoltà economiche, anche per ostilità interne ed esterne. Insomma, la Rinaldi non voleva darsi pace, ha provato più volte a rilanciare questo progetto, ma non ha più trovato a questo punto una sua determinazione economica. Ma continueremo a parlare di Resistenza dopo lo stacchetto musicale, parlando del dopoguerra e le battaglie durissime dei lavoratori per difendere i propri spazi sociali, e anche chi pagò questa libertà di informazione con la galera. Ma questo dopo lo stacco musicale. Nella seconda parte della trasmissione parliamo della battaglia per gli spazi sociali e anche per la libertà di stampa. E infatti sentiamo la testimonianza di Remigio Barbieri, collaboratore del Pioniere negli anni 60, in cui scrisse molte storie sulla Resistenza. Nel 54 era giornalista ancora non professionista della Lotta, giornale della Camera del Lavoro e anche dell'Unità. Negli anni 50 viene arrestato e condannato a 10 mesi e 20 giorni di carcere per aver scritto un articolo sull'esproprio della Casa del Popolo di Crevalcore da parte della polizia. In realtà, all'inizio del Novecento, i lavoratori si autocostruirono molte case del popolo, requisite negli anni venti dalle squadracce del Duce e cambiate poi in case del fascio. Nel 1945, allora, con la liberazione, sinistra e sindacati pretesero la resa di tali spazi, ma il governo chiedeva loro i documenti di proprietà. Documenti difficilmente reperibili dopo 20 anni di fascismo e 5 anni di guerra tremenda. E laddove non si raggiungeva un accordo di affitto, concessione o d'altro, si raggiungeva invece lo sgombero poliziesco contro picchetti dei lavoratori che difendevano le case del popolo ritenute occupate. A Crevalcore, allora, il giovane redattore Remigio Barbieri fotografò la sequenza di immagini di un pestaggio di un manifestante e per questo lui e Brini, allora direttore di Lotta, furono condannati niente poco di meno che dal tribunale militare. Oggi Remigio Barbieri, 89 anni, e con voce malferma ma memoria lucida, ai nostri microfoni ricorda quella vicenda che vide anche un manifesto di tante firme del giornalismo italiano chiedere la libertà dei due incarcerati in nome proprio della libertà di stampa. Stampa, il Corriere della Sera, La Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino. Allora, Remigio Barbieri, lei è stato in galera per un po', proprio per i reati di opinione, possiamo dire a questo punto, sì, in un periodo in cui c'era Scelba. Io sono diventato professionista quando sono andato a Lotta, una massa di gente, tutti davanti all'ingresso, la parte si rinchiude dentro ai vari piani, perché erano 3 piani, ma fui dato sul tetto e c'era uno con la tromba che suona per dire venite, venite perché c'è la polizia. Insomma, per farla corta, la polizia interviene, bastone giù rotto di collo, fa degli arresti. Io ero invece di fronte alla Camera del Lavoro, di fronte alla Casa del Popolo, dalla parte di qua c'è il teatro di Crevalcore, no? E io ero dentro un locale del teatro, che ovviamente era chiuso, e lì mi avevano i compagni di Crevalcore, mi avevano posizionato là con la macchina fotografica. Difatti io 12 fotografie, in cui c'è loro, i lavoratori che sono là, la polizia che arriva a plotoni affiancati, quello di sopra che suona la tromba, la polizia che interviene il bastone, e neanche sua sorella, era una funzionaria della Camera del Lavoro di Bologna. Concedi che Pignatti, che era un po', dava via dei grampoli, loro arrestano. E io cosa faccio? Faccio le fotografie, poi quando vado a casa scrivo l'articolo che viene pubblicato e su questo articolo io fui denunciato per vilipendio delle forze di polizia, vilipendio, che non c'era assolutamente vilipendio. La colpa di Brini è di aver pubblicato l'articolo, ma non solo, Brini a sua volta pubblica un articolo perché lì in via Marconi, sulla sinistra andando in più, andando verso la Piazza dei Martiri, la prima strada, c'era la sede dell'associazione Mutilati e Invalidi di Guerra, i quali, siamo all'indomani della guerra, i quali erano maltrattati perché non avevano lavoro, erano invalidi. Erano... No, poi anche per avere la possibilità. E allora lui viene imputato per la pubblicazione del mio articolo, ma anche, oltre a questo fatto, dell'altro sugli invalidi di guerra. Siamo nella sede di via Cavalcheri. I lavoratori di Impruneta, venuti a conoscenza dello sfratto, si stringono intorno alla loro casa. E arriva l'alba del giorno funesto. Ecco il popolo già tutto in piedi di fronte alla casa. Dall'interno, gli inni nazionali della resistenza del lavoro si fanno più alti e sonori. Siamo ribelli della montagna. Sarà la legge dell'avvenire. Ingiustizia. disciplina. Libertà è l'idea che si avvicina, rosso sangue il color della bandiera, siamo l'Italia, la madre portatiera, sulle strade tra le vito assediate, lasciamo talvolta le carni straziate, sentimmo la torre della grande riscossa, trovammo la morte la patria nostra. I belli della montagna, gli stenti e i pavimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Quindi voi foste condannati, perché foste condannati? L'ordine di cattura e di imputati è messo in data 18-12-54, Brini è restato in carcere alle 5 del mattino, lui abitava con la moglie e con una bambina, vado lì e lo arrestano. Quando io vado alla lotta la mattina, come solito, sulle 8:30 così, mi dicono, sai, dice, hanno arrestato Brini, adesso tu devi tagliare la corda. Ora io divento latitante, difatti vengo ospitato presso varie case, eccetera, da una casa, poi l'altra, cioè una vita da latitante. Quanto è stato latitante? No, la latitanza è durata praticamente un mese o di lì, no? Poi dopo, quando viene tenuto il processo, Brini era nel carcere militare di Via De Chiari, quindi viene portato lì. Il primo giorno lui è lì, dopodiché il secondo giorno, perché uno dei miei difensori mi dice, guarda, il secondo giorno vediamo se le cose vanno bene, ti presenti, se vanno male resti latitante. Latitante e dovrai espatriare. Il secondo giorno, siccome sembrava che andasse, io mi ero messo tra il pubblico e lì i compagni si mi conoscevano, dice, ma cosa stai, ma come qui, guarda che se ti vedono ti arrestano. Invece, difatti, io dovevo essere arrestato, mi arrestano, io mi presento davanti alla corte, ufficiali in divisa, no? E veniamo condannati tutti. Per quale motivo? Perché eravamo stati militari. Brini era stato soldato durante la guerra, era stato partigiano, e quando era partigiano addirittura fu uno di quelli che si arruolarono nei reparti di combattimento che andavano lì lungo il Senio del Ravennate. Quindi ne ha fatto del... Io invece avevo fatto quella che non c'è più, cioè ero aviere, soldato di leva, quindi soldato di leva. Quando tu venivi finito il periodo di leva, tu andavi a casa, ma però restavi militare, in modo tale che qualsiasi cosa che succedesse, potevi essere richiamato perché c'era un motivo, e in questo caso fummo arrestati. Eravate ancora militari. Eravamo però militari a casa, hai capito? Sì, sì. Robe folli. Quindi, certo, che contrastava con la Costituzione, c'è un articolo che dice che il diritto di opinione è. Allora, cosa succede? Che quando veniamo condannati, i nostri difensori fanno ricorso presso il Tribunale Supremo Militare di Roma, dicendo che non si ravvisano, che queste sono delle condanne di carattere politico, eccetera. Allora succede questo fatto, che il Tribunale Supremo incarica un procuratore di andare a esaminare le carte, eccetera, eccetera, e trovano che praticamente non esistono dei motivi, la nostra condanna viene invalidata e gli imputati, cioè io e Brini, rinviati al Tribunale Militare di Firenze perché riesamini la cosa. Nel frattempo si svolgono manifestazioni, qui si tiene una manifestazione nazionale, vennero i giornali giornali, i direttori dei giornali. How delicious is the winning of her kiss, bind her love to eternal bliss. She's the greatest power in the universe, freedom. Her touch will feed your real hope. In the darkest days on the steepest slope, let your good heart and kindness fill the temple. Freedom. Freedom. Nobody's free till everybody's free. We walk the winding road, sail the raging sea. No prison cell, no censorship hell can claim our obedience and love. Here's our toast to freedom, to human rights and dignity, love, respect and forgiveness, united in a dream for victory. Here's to the battlefields for justice of the banished, tortured, and enslaved. The selfless spirit and commitment to our brothers and sisters and their graves. Questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va mai?